dal 26 febbraio alla libreria.input si terrà il corso Epistemologie, indagine critica e costruzione del senso nel campo scientifico. Siamo qua con i curatori Alessio Resentella e Mattia Galeotti. Buongiorno ragazzi e benvenuti ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, buongiorno, ciao. Allora ragazzi, io partirei un po' dal principio, quindi vi chiederei che cosa vuole raccontare questo corso, come e perché nasce. Il corso nasce dalla sensazione che ci siano dei temi, degli argomenti, dei modi di parlare di scienza che sono particolarmente presenti nel dibattito pubblico, quasi onnipresenti, ma che non sono affrontati con la dovuta profondità, con la dovuta accuratezza e con la giusta anche prospettiva storica. L'anno scorso c'è stato un altro corso alla libreria.input che si intitolava Contro Nature, su temi di ecologie, da un punto di vista filosofico, storico e politico, e alla fine di questo corso ci siamo trovati, abbiamo parlato del fatto che ci sembrava un po' che un corso molto ricco mancasse di approfondire questi aspetti scientifici, questi aspetti di come le tecniche e il lavoro di scienziati e scienziate poi costruisce la realtà. E allora abbiamo pensato a questo corso che sarà appunto, avrà sia una prospettiva storica, sia cercherà di vedere che tipo di dibattiti oggi animano le scienze, che tipo di categorie vengono usate e che tipo di poste in gioco ci sono. Una cosa che per esempio ci sembra molto centrale è il discorso su cosa sia la specificità del vivente dentro il discorso scientifico e quale sia il rapporto tra biologia o comunque le scienze del vivente e la metafora delle macchine, della metafora informatica che noi vediamo un po' dappertutto quando si cerca di analizzare come funziona la natura, ma anche come funziona l'essere umano, funzionano i virus, per fare solo degli esempi. E quindi torno a queste direttrici principali: la specificità del vivente dentro il discorso scientifico, il rapporto tra il discorso macchinico e il discorso epistemologico in generale. Struttureremo 5 lezioni. La prima sarà di presentazione, ci sarà Giuseppe Longo a presentare il suo libro che si intitola Matematica e senso. Oltre al rapporto tra il discorso matematico e la costruzione di senso, affronteremo il particolare rapporto tra la matematica e le scienze del vivente. La seconda lezione la terrà Alessandro Sarti e si parlerà di dinamiche della mutazione, cioè di come la matematica può parlare dell'emergere di novità, sia nel funzionamento del corpo umano che nel funzionamento dell'evoluzione. Poi avremo una lezione su algoritmi e intelligenza artificiale, quindi sia dal punto di vista di come gli algoritmi costruiscono l'intelligenza che di come noi costruiamo gli algoritmi. Poi la quarta lezione sarà con Elena Gagliasso e qui tratteremo un punto di vista storico il rapporto tra uomo e l'ambiente, o meglio i suoi ambienti, e quindi tratteremo questo rapporto negli ultimi 150 anni e come è cambiato e quali ripercussioni politiche e influenze ha avuto durante questa storia. E come ultima lezione ospiteremo Elisabetta Donini e questa ultima lezione ci serviva per riuscire ad analizzare e trattare il rapporto tra le varie soggettività e le scienze e come questo rapporto si è generato soprattutto negli ultimi 40 anni. Perfetto ragazzi, grazie per averci fatto innanzitutto una panoramica, diciamo, appunto degli appuntamenti del corso. Vi volevo chiedere, oggi insomma si parla molto di scienze, no? Avete citato anche voi prima la parola virus, no? Che è una parola che ora ricorre purtroppo tantissimo, quindi vi volevo chiedere, questo corso cercherà anche un po' di rispondere alla domanda di qual è oggi il ruolo delle scienze nel campo della critica, ma anche nel campo della politica? Sicuramente sì, quello che ci interessa è vedere le scienze non soltanto come uno strumento o come dei linguaggi per creare degli strumenti, ma come dei campi di battaglia in se stesse, come dei terreni dove si costruisce senso, si costruisce percezione della realtà e si costruisce la stessa realtà, e quindi per noi smontare il discorso scientifico, entrare all'interno, significa proprio capire che attorno a quelle parole, attorno a quei discorsi si sta disegnando dei mondi e che quindi non c'è semplicemente da prendere degli strumenti e utilizzarli in modo diverso, ma c'è proprio da costruire gli strumenti, partecipare alla costruzione di questi strumenti, della comunità scientifica, e così via. Perfetto ragazzi, io vi ringrazio veramente, ricordo ancora una volta che partirà insomma tra pochi giorni, il 26 febbraio, tra l'altro sarà sia online che in presenza, per cui insomma se chi ha voglia di partecipare consiglio di sentire la libreria.input, insomma grazie ancora. Potete scrivere una mail alla mail ufficiale della libreria.input e chiedere informazioni per il corso e tutto il necessario. Esatto, grazie ancora ragazzi. Grazie a te, ciao.